Effetto Mondo. And you have to understand, we first went through Russia, Russia, Russia. It was all bullshit. Che eleganza, Giulia Crivelli, benvenuta, ben ritrovata. Buongiorno a te, Laura. Abbiamo tutti gli ascoltatori. Tutto ormai. Qualsiasi cosa. No, tra l'altro è stato veramente una sorpresa, come se davvero Donald Trump non sia riuscito a controllarsi, perché aveva promesso, e pare i retroscenisti dicono il suo staff gli aveva consigliato, lo aveva convinto e aveva preparato un discorso dai toni abbastanza concilianti, ha stravinto la lunga battaglia per l'impeachment, quindi non c'era bisogno appunto di aggiungere benzina sul fuoco, ma evidentemente proprio non è riuscito a trattenersi. Quindi tra le tante cose che ha detto, ha attaccato in un modo veramente duro Mitt Romney, il senatore che ha votato, l'unico senatore del suo partito che ha votato per l'impeachment, ne abbiamo parlato ieri, ma ha attaccato tutti, Nancy Pelosi, che è già stata più volte definita, ed è una cosa che mi fa venire i brividi, Crazy Nancy, Nancy la pazza, e poi ha attaccato anche Johnson, che comunque è, insomma, con il quale tutto sommato andava abbastanza d'accordo. Il premier britannico è stato preso di mira perché, per la decisione presa dallo stesso premier britannico settimana scorsa, anche di questo avevamo parlato qui a Effetto Mondo, di dare il permesso a Huawei di partecipare alla costruzione della rete 5G. Cosa sulla quale Donald Trump è profondamente invece contrario, aveva consigliato a tutti gli alleati più stretti di tenere fuori dalle gare Huawei. Johnson ha osato fare il contrario, tanto che Financial Times oggi titola un Trump apoplettico, che potremmo dire proprio fuori di sé, ma quando si perde il controllo proprio in un modo quasi sconsiderato, quasi appunto da TSO, quasi. Quindi ha mostrato tutta la sua furia. To vent fury vuol dire proprio investire con la furia di una tempesta, e il leader del Regno Unito per la decisione di Huawei. Naturalmente di questa conferenza stampa parlano tutti i giornali americani, spiegando appunto con, insomma, da punti di vista magari anche diversi, le parole usate da Donald Trump. Fa eccezione USA Today, per fortuna, che invece ha un bellissimo sondaggio. È proprio un special report sul sistema sanitario nazionale, che speriamo che quando la campagna elettorale americana riprenda a occuparsi di cose concrete, dovrebbe essere questo un grande tema, quello del sistema sanitario. Il 92% degli americani chiedono cambiamenti comunque nel sistema, nella healthcare system, che sappiamo non è come il nostro pubblico, è molto più complesso. È certo, ma secondo te Boris Johnson ha, diciamo, assaggiato un po' il futuro se resterà Trump alla Casa Bianca? Non so, perché, guarda, adesso siamo all'inizio. Credimi, ci pensavo, perché è evidente che gioca molto la personalità dei due uomini. Anche Boris Johnson è molto carismatico, non credo gli faccia piacere essere insultato in diretta nazionale e internazionale. E però Boris Johnson ha bisogno dell'appoggio di Donald Trump nello scenario post-Brexit, quindi dovrà fare buon viso a cattivo gioco, credo. Non penso che possa sentirsi di essere all'altezza, diciamo, di avere le stesse armi economiche che ha Trump. Non le ha il Regno Unito, per quanto economia forte, non è comparabile con gli Stati Uniti. Quindi, però, i due, insomma, credo che... Tra l'altro sono due che nessuno dei due è conciliante, ecco. Sì, quindi se uno è apoplettico, l'altro probabilmente al prossimo giro restituirà in qualche maniera. Sì, comunque, perché insomma ricordate, no, che non so, le sue famose esternazioni, I'd rather be dead in a ditch, preferirei essere morto in una trincea che non far passare la Brexit. Quindi anche in termini di linguaggio, insomma, qualche punto in comune ce l'hanno. Poi in realtà Boris Johnson è anche uno che prende la parola e parla in greco antico, perché ha fatto tutte studi e due, classici, certo. Quindi volendo, cioè, insomma, diciamo che la formazione di Boris Johnson è diversa da quella di Donald Trump, però insomma vedremo. Bisognerebbe davvero, Laura, pensa che bello essere delle piccole moschine negli studi sentire. Dove si incontrano. Sì. Certo. Vabbè. Dunque, restiamo un po' in Gran Bretagna. Questione sanità che hai anticipato sulle pagine dei quotidiani americani, per quello che riguarda ovviamente il loro sistema sanitario, ritorna anche lì. In realtà è un problema comune a tutto il mondo, perché poi abbiamo detto no, in Francia, da noi per carità non ne parliamo. Comunque, cosa succede? Ma la cosa un po', se vuoi, triste è che il Regno Unito tradizionalmente, insieme a noi tra l'altro, aveva questo primato di un ottimo sistema sanitario pubblico. Però perché sono mancati i finanziamenti, perché anche nel Regno Unito i migliori medici se ne vanno e perché anche lì la popolazione invecchia, è in crisi. E quindi, per esempio, l'Independent sottolinea come l'ex ministro della sanità con il governo May affiancherà la campagna lanciata proprio dall'Independent, perché c'è un grossissimo problema, in particolare nei reparti di maternità. Ne sono stati chiusi tantissimi, anche questo è un problema che conosciamo bene, in centri più piccoli, in piccole città, con il risultato che aumenta la mortalità durante, appunto, o durante il parto o subito dopo, o comunque non viene garantita l'assistenza che sulla carta dovrebbe essere garantita dallo Stato a tutte le donne che sono incinte e stanno per partorire. E poi, per sprazzi di Brexit, ci sono anche 500.000 idraulici polacchi, no? Ti ricordi la questione sugli idraulici? Sono ovviamente idraulici, però sono 500.000 persone che sappiamo che arrivano, insomma, dalla Polonia e vivono in Gran Bretagna. C'è questo 2020 che dovrà essere l'anno delle negoziazioni, e uno pensa, ma come, in un anno non ci si può mettere d'accordo? Ma pensate che cosa vuol dire, da una parte, avere un negoziatore che è il Regno Unito, che deve negoziare con Bruxelles, che a sua volta è fatta da 27 paesi, e tutti vogliono poter dire la loro. Quindi non sono 11 mesi in cui possiamo chiuderli tutti in una stanza perché finalmente facciano le regole per la Brexit. E quindi molte persone, tra le quali questo 500.000 di polacchi regolari, spiega il Daily Telegraph, nel Regno Unito, in realtà non sanno se UK sarà ancora la loro casa, perché se le regole non saranno quelle, cioè non avranno i diritti che hanno avuto fino adesso come cittadini dell'Unione Europea, potrebbero decidere di lasciare il paese. Dunque, negli ultimi minuti, certo che non stiamo pensando, sarà durissima a Londra, ci sarà un via vai di negoziatori che rimpiangeranno l'Unione Europea, secondo me, per almeno questo periodo, poi dopo saranno liberi di fare quello che vogliono, ma negoziare 27 accordi non è cosa, no? Davvero, tra l'altro, a proposito di questo, perché vabbè, noi naturalmente adesso non sappiamo, però ci saranno veramente dei problemi, me ne parlavano anche le aziende che hanno rapporti per esempio con le scuole di moda inglesi o britanniche, per l'avanti e indietro, per la libera circolazione delle persone, che non ci sarà più, tanto che i pragmaticissimi giapponesi della Nissan hanno deciso, a questo punto teniamo soltanto gli stabilimenti nel Regno Unito, perché è talmente complicato pensare di fare il via vai dei prodotti, delle merci tra l'Europa continentale e il Regno Unito, che facciamo così almeno possiamo programmare, perché loro hanno bisogno giustamente di programmare, di guardare al futuro. Guardando al futuro invece della Germania, diamo l'epilogo parziale della questione, no? Perché ieri ferita. Abbiamo parlato della Turingia, oggi si è dimesso, tra l'altro, record è stato governatore per un giorno, Thomas Kemmerich, ieri mattina a stamattina, esatto, perché come sapete era diventato governatore, lui fa parte del Partito Liberale, era stato eletto con i voti della CDU e dell'AfD, che alla tornata precedente invece avevano votato per un candidato indipendente. L'AfD, Alternative für Deutschland, nelle file di questo partito, è entrato per la prima volta nelle ultime elezioni al Parlamento tedesco, ci sono anche dei negazionisti dell'Olocausto, e quindi vi lascio immaginare la reazione. Sentiamo, se abbiamo tempo, abbiamo un breve audio del presidente del partito a cui appartiene Kemmerich, che ha detto come sia potuto succedere di votare insieme all'AfD. Beh, io non lo so, forse quasi dice non lo voglio sapere, ma non poteva che finire così, con le dimissioni di questo governatore, uomo del mio partito, che però ha accettato di farsi eleggere così. Sentiamo le sue parole. Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit oder Abhängigkeit mit der AfD darf es für eine demokratische Partei in Deutschland nicht geben. Dice un qualsiasi rapporto con l'AfD o dipendenza dall'AfD, dice questo, perché in effetti se ti fai eleggere con i voti che diventano cruciali di questo partito, non è possibile, non è ammissibile. E quindi, insomma, con... Ma tra l'altro le foto oggi pubblicate, praticamente la stessa foto dalla Welt, dalla Süddeutsche Zeitung, dal Tagesspiegel, dalla Faz, sono di questo Kemmerich con il capo piegato, perché insomma ha capito che veramente l'ha fatta un po', sì. Non andava. Allora Giulia, ci dobbiamo salutare perché il tempo è giunto di fare i saluti e i ringraziamenti. Jacopo De Franchi in redazione, Filippo Aureggi in regia, a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Grazie Giulia, lunedì torna Alessio Maurizi, quindi a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.